Una piccola mossa, un gesto abortito di dita. Fredde mi cascano parole e fumo dalla bocca. Nessuno arbitra questa partita, nessuno spettatore caldeggia questo palio, nessuno abita questi due corpi. Perciò ti arresti a metà discorso avvertendo, attoniti, un dissesto nelle ossa, stanchi morti, tentiamo distratte circonduzioni del collo. Cortocircuiti di anacoluti impacciati, valentie millantate circuiscono le bocche arrotondate, i denti si arrotano pronti a mordere, verbi feroci a morte, recriminazioni sessuali, svendite delle rimanenze all'asta dei souvenir di un nostro viaggio premio rimandato in eterno.